Io sono qui più che altro in veste di antico lettore di Giorgio Valli, che seguo, credo, dalla sua prima opera, dalla storia del Partito Comunista, scritta con Bellini nel 1954, non sono così vecchio, l'ho letto dopo, non nel 54, avevo solo 2 anni nel 54. Questo libro riprende un libro che Giorgio Valli scrisse negli anni 70 sui... È uscito nel 62, ormai è vicino al mezzo secolo. C'è la riedizione del 75. È un vecchio libro, uscito negli anni 60, appunto, sulla guerra rivoluzionaria. Cos'è la guerra rivoluzionaria? Negli anni 50, una breve introduzione forse può essere utile in questo senso, negli anni 50 il blocco occidentale subì una serie di sconfitte molto gravi. Prima i francesi in Vietnam a Dien Bien Phu nel 54, dopo gli stessi francesi in Algeria nel 62, dopo gli americani più tardi avranno una sconfitta definitiva in Vietnam nel 1975. E poco prima c'era stata l'affermazione del Partito Comunista Cinese con la rivoluzione terminata vittoriosamente nel 1949. Il punto era questo: come poteva accadere che uno degli eserciti più forti del mondo, l'esercito francese, fosse battuto da un esercito meno numeroso, meno armato, meno equipaggiato come quello dei guerriglieri vietnamiti? Tutto questo iniziò a far sviluppare una teoria all'interno degli stati maggiori, tanto francese quanto americano. Gli americani svilupparono la cosiddetta teoria dell'insorgenza, che spostava la sua attenzione solo sul dato militare della guerriglia. La guerriglia è un terreno sul quale gli americani hanno sempre avuto forti difficoltà, tipo di guerra che non appartiene proprio al pensiero militare americano. Lo Stato Maggiore francese invece sviluppò un'altra teoria. Il gruppo che ci lavorò era un gruppo di ufficiali cattolici, tradizionalisti, quelli che poi si connetteranno alla chiesa scissionista di Lefebvre, il gruppo della Cité Catholique. Questo gruppo iniziò a teorizzare la guerra rivoluzionaria. Cos'è la guerra rivoluzionaria? La teoria è questa: i comunisti stanno vincendo, spiegavano loro, perché stanno facendo ricorso a un nuovo tipo di guerra. Un tipo di guerra che fonde insieme elementi diversi, non più solo l'aspetto militare aperto, i carri armati, gli aerei, la fanteria che avanza, ma che fonde insieme agitazioni politiche e rivendicazioni sindacali, operazioni di spionaggio e operazioni di destabilizzazione, attentati, guerriglie, dopodiché, se si rende necessario, un atto militare solo come spallata finale. L'Unione Sovietica ha già dichiarato guerra all'Occidente, questa era la teoria, e sta conducendo la sua guerra in queste forme nuove di guerra totale, in cui non è il dato militare quello prevalente, ma è il dato politico. Quindi in questo senso c'è una differenza rispetto alla teoria dell'insorgenza degli americani, che focalizzava l'attenzione solo sul dato militare della guerriglia. Qui invece si parla più complessivamente. Questo che cosa richiede? Richiede che l'Occidente si dia una capacità di decisione a livello della sfida ricevuta, che quindi l'Occidente si dia una unità di comando. E voi capite che questa teoria della guerra rivoluzionaria segnala una cosa importante: segnala un'irruzione dei militari sulla scena politica, inizia a far sviluppare tendenze, tra virgolette, pretoriane, cioè gli eserciti iniziano a sviluppare un loro protagonismo politico, quello che, riprendendo una terminologia di origini, lontane origini marxiste, potremmo chiamare bonapartismo. Questa, la previsione che l'esercito impiegato in contesti coloniali potesse sviluppare tendenze politiche autonome, esattamente come era successo nell'antica Roma, dove le legioni avevano iniziato a un certo punto a porsi direttamente come soggetto politico che influiva sulla scelta dell'imperatore, ad esempio. Sarà per la prima volta, Hobson nel suo libro sull'imperialismo, che verrà poi ripreso da Lenin nella sua celebre opera sull'imperialismo, fase suprema del capitalismo. L'idea era, guardate, l'esercito imperiale, cioè impiegato in contesti coloniali, può diventare un elemento di destabilizzazione della metropoli. In effetti accade qualcosa del genere. Accade che gli eserciti impegnati, soprattutto quello francese, non è un caso che queste teorizzazioni vengono dallo Stato Maggiore francese, che era quello che aveva subito le sconfitte del Dien Bien Phu in Algeria. E non è un caso che da una costola dell'esercito francese nascerà uno degli organismi di antiterrorismo più importanti, che sarà in qualche modo un modello, l'OAS, l'Organisation de l'Armée Secrète, da cui peraltro da un'ulteriore costola si distaccherà l'agenzia Agenter Press, che lavorerà a Lisbona e che sarà al centro anche della strategia della tensione in Italia, coinvolta appunto in episodi come la strage di Piazza Fontana. Anche lì l'intreccio sarà appunto fra estrema destra e settori militari in nome delle teorie della guerra rivoluzionaria. Se voi andate a leggere gli atti del convegno di Parco dei Principi, troverete la teorizzazione sulla guerra rivoluzionaria come base di quello che sarà la successiva strategia della tensione. La faccio breve, non mi dilungo. La tesi di questo libro attuale, che è una rivisitazione del libro del 62, che in parte però era stato ripreso, adesso ricordo, come temi nel libro sulla destra in Europa del 75, sì, quindi accavallavo nella memoria queste due cose. Oggi sto un po' smollato, scusa. Questo libro riprende tutto questo e propone questa tesi. Guardate che le teorie della guerra rivoluzionaria, che erano uscite dalla porta della crisi degli anni 60-70, quando con i trattati di Helsinki e l'istituzione della CSCE, la Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, eccetera, si pone finalmente un freno alla guerra fredda, perlomeno finisce una prima fase della guerra fredda, e tutto questo provoca il fatto che per esempio la NATO, che delle teorie della guerra rivoluzionaria aveva fatto la sua dottrina ufficiale, smetta questa teoria. Però queste tesi, che erano uscite dalla porta, rientrano dalla finestra. E qual è questa finestra? In realtà queste tesi sono arrivate alle élite militari del terzo mondo e ci sono rimbalzate indietro attraverso le turbulenze militari di questi anni, attraverso anche la nascita effettivamente di apparati da guerra rivoluzionaria, dobbiamo dire, come gli Hezbollah o come Al-Qaeda. E in qualche modo l'apparato militare americano legge la crisi, per esempio, dell'attentato dell'11 settembre, rispolverando le teorie sulla guerra rivoluzionaria. Quindi l'idea qual è? L'idea è, nasce di nuovo, si ripropone il problema del ruolo dei militari in politica. Paradossalmente la fine dell'impero sovietico, che avrebbe dovuto portare, con la dissoluzione del mondo bipolare, dell'equilibrio bipolare, avrebbe dovuto portare a un'epoca di pace, di relativa stabilità, apre invece la porta su uno scenario di grande instabilità e quindi di rilancio della funzione militare. C'è una sorta di militarizzazione del pensiero politico occidentale, che si è espressa poi negli interventi militari in Afghanistan e in Iraq, o in quelli meno rilevanti in Somalia o in altri contesti, no? Ma si ripropone ancora oggi come elemento di ripensamento dell'intera struttura del sistema politico, delle catene di comando. I militari tendono sempre di più ad agire come soggetto politico, come elemento di come centro di influenza sulle decisioni della politica. Personalmente, quindi, questo è il cuore del libro. Adesso la faccio breve, quindi tralascio tutta una serie di aspetti pure molto importanti e molto interessanti, ma per concentrare l'attenzione. Io personalmente ritengo che in tutto questo ci siano molti aspetti assolutamente condivisibili. Ci aggiungerei una cosa però: credo che noi siamo di fronte a un fenomeno ancora più vasto, e vorrei soffermarmi solo su questo aspetto. Non si tratta solo della riproposizione del protagonismo dei militari, delle tendenze pretoriane dei militari relativamente alla reazione all'evento terroristico, alle instabilità succedute alla fine del bipolarismo. Ci sono anche altri aspetti che secondo me possono in qualche modo, combinati con questi, darci una visione più complessiva. Vedete, si dice che la guerra fredda sia stata la terza guerra mondiale, combattuta non con le armi convenzionali, ma combattuta essenzialmente come guerra politica. Ma dopo la guerra politica vinta dall'Occidente, in realtà molti iniziano a parlare di una quarta guerra mondiale, che è una guerra eminentemente economica e finanziaria. È il momento in cui, ad esempio, assistiamo a una profonda riconversione degli apparati di intelligence, che dallo spionaggio politico e militare si stanno riconvertendo allo spionaggio economico e finanziario, industriale. Esiste un'attrazione irresistibile fra il blocco finanziario e gli apparati di intelligence, assecondato ad esempio dello sviluppo delle telecomunicazioni, che è uno degli aspetti centrali della rivoluzione industriale in atto e sul quale è evidente la convergenza di interessi fra finanza e apparato di intelligence. Ma esiste anche un fenomeno più lato. L'industria delle armi in questi anni, lungi dal diminuire, ha aumentato considerevolmente i suoi bilanci. L'industria delle armi ha in questo momento una funzione addirittura di volano. Se andiamo a vedere i bilanci degli Stati Uniti, ci accorgeremo che gli Stati Uniti sono esattamente l'opposto di uno Stato liberista che non interviene, sostengono l'economia attraverso le commesse militari da parte del governo. Non solo, ma assistiamo a una profonda trasformazione, a quella che Rumsfeld ha chiamato la rivoluzione degli affari militari e che io penso si possa chiamare la rivoluzione marziale tout court. Una rivoluzione che fa sì che nasca un nuovo blocco sociale dominante. Guardate, nella Prussia dell'Ottocento l'impero guglielmino si disse che nasceva sull'accordo, sul blocco sociale della segale dell'acciaio, cioè dei produttori terrieri del centro e del sud della Germania e dei siderurgici del nord della Germania. Io credo che noi siamo di fronte a un nuovo blocco sociale dominante che allea la spada e la moneta, un blocco sociale militar-finanziario, dove attraverso le commesse militari, attraverso l'enorme sviluppo del mercenariato privato, che fa riferimento a gruppi finanziari prevalentemente, è nato un blocco sociale che condiziona nettamente la politica. La politica ormai sempre più risponde all'idea di il politico come alto funzionario del capitale finanziario, dell'ipercapitalismo finanziario, in qualche modo elemento di contatto, ma gran commis fondamentalmente di questo blocco che allea militari e potere finanziario. Un'ultima riflessione, io credo che potrebbe essere utile sviluppare anche un altro aspetto. Tutto questo non resta senza conseguenze, anche la rivoluzione marziale in atto probabilmente cambierà molto sia nella struttura della nostra società sia nella struttura delle nostre istituzioni. Soprattutto in funzione di una cosa, io vi proporrei un'esercitazione mentale che alcuni di voi troveranno essere una specie di film dell'orrore, di chiedo scusa, e cioè provare a riflettere su cosa sarà la guerra futura, quella per la quale stiamo ponendo le premesse in questi mesi. Io credo che l'esito della crisi sarà probabilmente in qualche modo risolto anche da potenti gettiti di denaro fresco di provenienza cinese e araba. Ma tutto questo non resterà senza conseguenze e provocherà con ogni probabilità un riallineamento dei vari paesi nelle gerarchie mondiali. Questo quasi certamente provocherà degli attriti e dei conflitti, ma la guerra che noi abbiamo davanti non sarà ancora una volta una guerra convenzionale. Io non credo all'ipotesi, se non in via remota, di una guerra combattuta prevalentemente con carri armati, aerei e eventuali uso di armi atomiche. Io credo che invece noi assisteremo ad altro, assisteremo a una guerra spaziale. E a me ha fatto molto impressione qualche anno fa una cosa ripresa in questo libro: la Cina è riuscita a distruggere una sua stazione orbitante che ormai non era più utile, riuscendo a centrare il bersaglio. Questo significa una cosa, che la Cina ha la tecnologia sufficiente per colpire satelliti in orbita, e non è detto che continui a colpire i suoi satelliti in orbita. Quello è servito per l'esercitazione, dopo possiamo far sul serio. Esiste il problema della conquista del controllo dello spazio, ad esempio alcuni parlano di una nuova convergenza fra cinesi e russi per assicurarsi il controllo della corsa su Marte. Esiste il controllo delle tecnologie delle telecomunicazioni, esistono forme di guerra coperta, di terrorismo, di guerra batteriologica ad esempio. Esistono soprattutto forme di destabilizzazione economica e finanziaria che possono essere compiute in forme molto diverse. Io credo che probabilmente noi avremo a che fare piuttosto con la combinazione di questi elementi, che in fondo, se ci pensate, riprende e sviluppa l'idea della guerra rivoluzionaria come guerra totale che mescola insieme elementi politici, elementi sindacali, elementi militari, e qui ci aggiunge elementi finanziari, elementi economici, elementi di guerra spaziale. Con ogni probabilità noi ci troveremo di fronte a una situazione di questo genere, di una guerra assolutamente non dichiarata, di qualcosa che diventerà una sorta di stato di ostilità oggettivo, permanente e non normato da nessun accordo internazionale. Ed è in vista di questo che noi iniziamo a vedere cosa si sta producendo all'interno dei nostri apparati militari, i cambiamenti nel pensiero militare. Io mi fermo qui per non essere invadente, mi sono limitato semplicemente a lasciarvi, a riassumere maldestramente il libro di Giorgio Galli e a proporvi un paio di terreni di discussione connessi